datemi da bere 7 litri ma di vodka. Mi voglio sentire come un prete nella rodica. Datemi da bere del vinaccio andato a male, che nel fine settimana io mi taglio le vene. Datemi da bere 7 litri ma di vodka. Mi voglio sentire come un prete nella rodica. Datemi da bere del vinaccio andato a male, che nel fine settimana io mi taglio le vene. Datemi da bere 7 litri ma di vodka. Mi voglio sentire come un prete nella rodica. Datemi da bere del vinaccio andato a male, che nel fine settimana io mi taglio le vene. Datemi da bere 7 litri ma di vodka. Mi voglio sentire come un prete nella rodica. Datemi da bere del vinaccio andato a male, che nel fine settimana io mi taglio le vene. Ed io che sono triste come un cane arriva al porto. Portatemi nel porto, tanto non ve lo riporto. Portatemi nel parco dove c'è la luna piena. Faremo il nostro viaggio tra le vene di cancrena. Saremo sempre soli ma sinceri, preferisco. E non saremo ipocriti come dei testi sacri. E si riparte in viaggio con le moto, preferisco. E non saremo belli come il divo che idolatri. La situazione è drastica ma questa storia elastica si spezza proprio mentre faccio l'ora di ginnastica. La situazione è anomala ma questa storia subito la ritrita le mie viscere come limone e rucola. Ed ora che ritorno al mio passato preferito, cancello quel futuro che mi ero immaginato. Ed ora che non sono più ciclo più nessuno, solo bere per favore, voglio vino garantito.